La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo venerdì 12 di maggio sono le 16:30 primi e 18 secondi, in diretta dal studio di Milano vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, siate in ascolto adesso oppure in podcast, Oscar Giannino, come sempre vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Ieri ho ricevuto per caso due lettere che riguardano entrambe, problemi sul lavoro, sulla tutela dei diritti del lavoro, e in quel caso secondo me io ho già risposto ad una, risponderò anche alla seconda se siete in ascolto, credo di sì, e in quel caso io ritengo opportuno per voi non farvi fare la trasmissione per non esporvi, però nel primo caso ho già trovato la risposta da dare, nel secondo sto aspettando la risposta perché sono questioni delicate, preferisco dirvelo così piuttosto che pensiate che non abbia capito l'importanza di quello che mi segnalavate. Stiamo parlando di diritti elementari non rispettati in alcune aziende, quindi questioni delicate, per così dire, molto delicate, su dichiarazioni del servizio reso non conforme ai rischi del servizio reso e impossibilità di eleggere rappresentanti su responsabili della sicurezza come in ogni azienda, quindi questioni delicate, si può rischiare facilmente il posto, quindi preferisco munirmi di una consulenza ad hoc. Di cosa parliamo oggi invece? Io vi invito a telefonare perché sono molto curioso. Oggi parliamo della medicina omeopatica e quindi sono curioso se voi usate prodotti omeopatici che ci telefoniate e ci diciate perché, francamente. Parto dal presupposto che quantitativamente in Italia non si riesce a capire, adesso vi farò qualche cifra di diverse fonti di quanti siate a farlo, e la questione per la quale ce ne occupiamo in trasmissione è questa: che cosa ci deve essere scritto sul cosiddetto bugiardino, cioè il foglio di carta applicato e nell'addizione esterna che c'è sulla confezione del preparato omeopatico? Ci può essere scritto il termine medicinale? O invece bisogna sostituirlo? Vi dirò subito che io sono dell'idea che bisogna sostituirlo. Perché? Perché così la penso io? No, perché mi pare, questo è un tema analogo a quello dei vaccini, e a chi è convinto che sia un complotto quello dei vaccini, ma anche in questo caso noi abbiamo una evidenza scientifica accumulata unilaterale della quale io riterrei opportuno, affidandomi alla scienza, tenere il dovuto conto. Quindi qui non si tratta di poter, tra virgolette, spacciare, tra virgolette, medicinale ciò che non lo è. Io naturalmente so che voi, molti di voi, anche se non so dire quanti, utilizzano i preparati omeopatici. Quando dico non so dire quanti, vi faccio l'esempio di quanto è ampia la forbice della valutazione di quanto sia in percentuale la quantità di italiani che usano la medicina omeopatica, perché se andiamo a il rapporto sanità Eurispes presentato alla fine di gennaio scorso, vediamo che la percentuale di coloro che seguono medicine non convenzionali complessivamente è valutata nel 21,2%, con un aumento del 6,7% in 5 anni, quindi uno su 5, più di uno su 5, e l'omeopatia è la cura alternativa in questo 21% del totale degli italiani che fa uso di medicinali non convenzionali, e infatti secondo me è sbagliato anche definirli medicinali, fa uso di preparati di medicina non convenzionale, il 76% di questo 21% è composto da coloro che usano preparati di omeopatia, quindi stiamo parlando di tre quarti del 20%, saremmo a un 15% di italiani, una percentuale elevatissima, che fa ricorso a preparati omeopatici. Se andiamo a vedere invece la valutazione fatta dall'Istat, questo 15% scende in maniera significativissima, perché questi sono dati Istat 2015, secondo l'Istituto di Statistica, l'omeopatia è utilizzata solo dal 4,1% della popolazione, quindi siamo, come vedete, in una forbice di varianza elevatissima. L'Istat dice 4,1, l'Eurispes stima su suoi sondaggi ed elaborazioni il 15%. Per chi non avesse chiaro di che cosa stiamo parlando, perché magari non è evidente ricordarsi in che cosa consista l'omeopatia, allora il punto è che l'omeopatia ha la radice in una teoria dell'Ottocento, di Hahnemann in particolare, e che si fonda su un principio, il cosiddetto principio della similitudine del farmaco, di cui omeo, no? Omeopatia. E questo concetto si basa sulla convinzione che per ogni malattia il rimedio più adeguato sia rappresentato da una sostanza che in una persona sana, non malata, produce dei sintomi che sono simili a quelli che si possono osservare nella persona invece colpita dal male. Ecco, in questo è il principio omeopatico, e quindi si tratta di individuare, la ricerca omeopatica individua le sostanze che sono adeguate per ogni malattia, ogni patologia, a indurre nei sani sintomi a quelli osservati dalla persona malata, e la preparazione del preparato omeopatico si fa per iperdiluizione della sostanza che viene considerata adeguata per generare questo effetto di similitudine dei sintomi. Allora, l'iperdiluizione di questo preparato, del principio nel preparato, porta in effetti a farlo scomparire, perché stiamo parlando di diluizioni a multipli elevatissimi, tanto che l'omeopatia si basa sul fatto che il liquido della sostanza ha poi una memoria molecolare del principio attivo, anche se il principio attivo non c'è più. Nei decenni, dopo uno scandalo gravissimo che si verificò negli anni 80 su una delle prime riviste mondiali, quando Benveniste firmò una ricerca che gli venne pubblicata, nella quale si dava in buona sostanza ragione all'omeopatia, ricerca che poi venne fatta a pezzi per la verifica delle evidenze sperimentali assolutamente non replicabili. Dopodiché, da allora in poi, si sono sviluppati molti protocolli di verifica dei preparati omeopatici rispetto alle malattie che sono indicate, e l'evidenza accumulata è unilaterale, cioè il più che si può riscontrare è effetto placebo, ma non c'è nessuna evidenza scientifica. La Cochrane Collaboration, per esempio, che va avanti dalla fine degli anni 80 e viene aggiornata regolarmente su casistiche sempre più estese e patologie sempre diverse, oppure le meta-analisi pubblicate ogni tot anni su Lancet, che è una delle riviste leader per la ricerca in questo settore farmacologico, medicina, eccetera eccetera, biologia e così via, tutte sono assolutamente unanimi nell'escludere che i preparati omeopatici abbiano effetti farmacologici rispetto alle patologie. Al massimo si tratta di effetti placebo. Questo è quello che ci dice la ricerca scientifica. Io ve lo ricordo perché magari voi avete una convinzione diversa, e questa è la premessa per poi porci la domanda, perché bisogna assumere una decisione su cosa deve essere stampato sulla confezione, sul bugiardino e sulla confezione esterna del preparato omeopatico. Io vi ricordo il numero di telefono, se non ve lo ricordate, per intervenire è 800 24 00 24, quindi io aspetto le vostre chiamate, e adesso andiamo alla faccenda, cioè che decisione bisogna assumere. Abbiamo con noi come ospite, per spiegarcelo, perché è stato reso un parere in vista del fatto che c'è una scadenza temporale che va rispettata, che è quella di fine giugno di quest'anno, ed è stato reso un parere in materia, cioè su che tipo di etichette usare sui preparati omeopatici per essere pienamente conformi all'obbligo di informazione precisa al consumatore. Questo parere è stato reso dal Comitato Nazionale per la Bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato reso pubblico un parere formulato pochi giorni fa, il 28 aprile del 2017, ed è con noi per spiegarci molto meglio e molto più appropriatamente di quanto abbia fatto io in questa sintesi un membro appunto del Comitato di Bioetica, che è anche l'estensore, anzi la estensrice del parere stesso, cioè Cinzia Caporale. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio e grazie a voi. Allora, con pienissima licenza di correggere qualunque improprietà ci sia stato in ciò che ha sentito fino a questo momento da parte mia, ci spiega che scadenza è e alla fine in base a che cosa avete raggiunto il vostro parere e naturalmente che ci dirà in che cosa consiste? Bisogna scrivere e poter continuare a scrivere che è un medicinale oppure no? Il riassunto che ha fatto è perfetto, davvero perfetto, della premessa anche da cui siamo partiti al Comitato Nazionale per la Bioetica. La portata della nostra dichiarazione è da un lato molto limitata, riguarda le etichette, non è entrato nel merito della valutazione della medicina in sé e tantomeno è entrato nella valutazione del medico omeopata, che anzi va riconosciuto, questo lo vorrei dire proprio in apertura, va riconosciuto al medico omeopata di essere in genere un ottimo medico, molto vocato all'ascolto, all'attenzione per il paziente, ed è forse anche uno dei segreti del successo dell'omeopatia, dei numeri che lei ha dato. Quindi non abbiamo valutato l'omeopatia, né abbiamo valutato le altre medicine alternative o non convenzionali, peraltro il comitato era già intervenuto su queste diversi anni fa e ha mantenuto più o meno la stessa posizione. Sono molto diverse tra loro e ognuna merita una trattazione a parte, quindi abbiamo limitato fortissimamente il nostro interesse, però ricordiamo, tanto per capirci, per chi non fosse, ci facciamo capire anche da chi non è diciamo seguace, però medicine alternative possono essere per esempio la fitoterapia, che è quella al secondo posto dopo l'omeopatia come cioè stima, è molto diversa, totalmente diversa, possiamo dire che è prescientifica, esatto, diciamo, la chiropratica, insomma ci sono diverse esatto. E in più diciamo molto limitata, con l'impressione che l'impatto sia molto forte. Noi abbiamo limitato il nostro intervento alle etichette. L'idea è nata anche leggendo quanto accaduto di recente, qualche mese fa, negli Stati Uniti, dove sono andati giù, devo dire, parecchio duri, perché non solo hanno detto che insomma, nell'etichetta va esplicitato che non vi sono prove scientifiche, quindi in un modo anche più forte, diciamo, quanto abbiamo detto noi, ma addirittura che le informazioni fornite si basano unicamente su teorie settecentesche che la larga maggioranza dei medici oggi giudica inaccettabili, quindi sono andati molto più duri di noi. Però, negli Stati Uniti la decisione a cui si riferisce la dottoressa Cinzia Caporale è stata assunta nel novembre del 2016 e ad assumerla è stata la Federal Trade Commission, cioè l'agenzia per la protezione del consumatore, e ha fatto una circolare molto dura appunto, dicendo testualmente che sono preparati per sintomi che si risolvono da soli senza un trattamento particolare, quindi non è un farmaco, perché questi non sono farmaci, inducono altre cose ma non certo ciò che deve indurre un farmaco. Ecco, noi appunto siamo partiti dall'idea che qualsiasi prodotto, diciamo, per la salute debba necessariamente avere un'etichetta trasparente, sì. E questo è un requisito per tutti, naturalmente tutti i prodotti, i preparati, i farmaci, i medicinali. Tanto è vero che l'etichetta attuale dei prodotti omeopatici, dei preparati omeopatici, non ha indicazioni terapeutiche approvate e, diciamo, menziona solo questo fatto che, secondo me, se noi facciamo un referendum tra i nostri ascoltatori, non capisce nessuno che cosa voglia dire medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Sì, sì. Sono partiti proprio da questo dato di fatto. Sembra, se posso dire, una classica formula pilatesca all'italiana. Esattamente. Allora noi abbiamo pensato con molto rispetto, ma con molta decisione, di voler esplicitare questo concetto, e devo dire ci siamo fatti intorno parecchio. lo abbiamo limato e rivoltato diverse volte proprio per essere accurati anche nella nostra proposta. E noi proponiamo delle nuove etichette. Allora, innanzitutto in queste etichette il termine medicinale dovrebbe essere appunto sostituito da preparato omeopatico. Bene. L'etichetta dovrebbe recare questa scritta, preparato omeopatico di efficacia non convalidata scientificamente e poi senza indicazioni terapeutiche approvate, che è quello che già c'è, diciamo. Però la dizione non convalidata scientificamente ci sembrava più chiara e speriamo che i nostri ascoltatori la possano apprezzare. Il terzo punto è che, oltre che la denominazione dei ceppi omeopatici in latino, che è quella attuale, che è anche quella storica, che sicuramente va mantenuta, volevamo anche diciamo che venisse tradotta in italiano, perché delle volte dietro al latinorum c'è così un po' un eccesso come di affidarsi, ecco, a qualcosa che sembra molto migliore di quanto non sia in realtà, molto più esotica e quindi intrigante, suggestiva di quanto non sia. Insomma, delle volte si parla di normali prodotti che usiamo correntemente, il sale da cucina, alcune piante che usiamo, la cipolla, non so, ecco, cose di questo genere. Quindi sarebbe molto importante fare una svolta, e in questo ci aspettiamo, abbiamo visto delle reazioni naturalmente da parte di chi produce questi preparati, ma ci aspetteremo delle risposte da parte proprio invece delle istituzioni, che in questo momento ancora non hanno risposte. Io naturalmente ho rispetto per tutte le imprese, anche per chi produce questi preparati, però va ricordato ai nostri ascoltatori che il gravissimo scandalo di Nature del 1988, cioè quella ricerca che sembrava approvare l'efficacia del principio omeopatico di Benveniste e che poi è costata giustamente la carriera a Benveniste, risultò poi, e non era dichiarato, naturalmente finanziata da una grande azienda statunitense produttrice, tra le altre cose, anche di preparati omeopatici. Quindi, insomma, una ricerca tra virgolette interessata, che si rivelò anche un Nobel della fisica tentò di replicare gli esperimenti che venivano descritti alla base della ricerca di Benveniste, che aveva rappresentato una soluzione di continuità, cioè una grande rottura, una grande apertura all'omeopatia, e nessuno è mai riuscito a ottenere evidenze replicabili di quello che quello studio, tra virgolette, interessato, cioè finanziato da una produttrice di preparati omeopatici, dichiarava in termini rivoluzionari come, beh, insomma, ci sono effetti ed evidenti. Ma se questo è il parere che avete reso, vorrà dire che lo avete reso a qualcuno. Chi è che decide? È caduta la linea? E naturalmente anche con il concorso di altre istituzioni che tecnicamente le affiancano, ad esempio l'Istituto Superiore di Sanità, di cui non dubito anche il rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità, che è Carlo Petrini, per conto di Walter Ricciardi, ha preso una posizione molto netta e molto favorevole. Allora, un minuto di informazione sulla circolazione stradale e poi torniamo in diretta con la dottoressa Cinzia Caporale. La versione di Oscar. Allora, preparati omeopatici, cosa scriverci sopra? Medicinali o no? Parere della Commissione Bioetica Nazionale? No, no, no. Medicinale no, si è sostituito dal termine preparato e la formula sia preparato omeopatico di efficacia non convalidata scientificamente e senza indicazioni terapeutiche approvate. Come immaginavo, molte telefonate. Cominciamo da Antonio, che ci chiama da Brescia. Prego, Antonio. Sì, buongiorno Oscar, un piacere parlare con... Prego. Vabbè, io sono pienamente d'accordo con la posizione presa dal comitato, dalla commissione. Sì. Oltretutto, vabbè, mi sono anche informato e posso anche, penso, magari dare un consiglio agli altri ascoltatori. Provate a leggervi Acqua Fresca, che è un libro fatto dal professor Silvio Garattini, sì. Che non è, sul quale io metterei non una mano ma addirittura anche due sul fuoco, perché penso sia una persona trasparente, onesta, nel quale spiega cosa è l'omeopatia e poi lascia al lettore così le sue opinioni. Però l'ho letto anch'io, devo dire, ne ho letti anche altri. Cioè, io tento di leggere su questo tutto, avendo anche bambini piccoli, quindi lo sento come un dovere. Però le evidenze scientifiche sono quelle, ma so che tanti invece non ne sono convinti. Il problema, leggendo anche il libro, non è tanto il business dell'omeopatia, che ognuno poi è libero di decidere cosa fare. Però se su certe patologie dove non basta l'effetto placebo, se uno pensa di curarsi con l'omeopatia, si espone sicuramente i propri cari a delle conseguenze, diciamo così. Allora, opinione chiara, e vediamo invece come la pensa Pasquale, che ci chiama da Bari. Prego Pasquale. Sì, buonasera a voi e anche ai radioascoltatori. Allora, io ascoltavo, essendo interessato in quanto lavoro nel settore dell'omeopatia da quasi un ventennio, quindi ho potuto seguire grosso modo l'andazzo, francamente non molto dal punto di vista terapeutico, quanto più dal punto di vista commerciale. Di mercato, di mercato. A questo punto io posso dire, che negli anni non c'è stato mai un vero e proprio crollo, anzi c'è stato sempre un andamento costante, se non in crescita, della vendita di questi prodotti omeopatici. Ora, la domanda sarebbe questa, questa a parte la proporzione con il costo di questi prodotti, quindi spesa molto alta, quindi l'efficacia va anche valutata da parte del paziente, quindi un andazzo sempre crescente, sempre costante di questo, mi fa credere che o il prodotto che ci sia una domanda soddisfatta, dice lei, esatto, oppure dall'altro lato potrebbe essere una non chiarezza proprio dal punto di vista burocratico sanitario, che permette la vendita e quindi la spesa molto sostenuta di prodotti che magari di cui l'efficacia è solo dubbia, ma quasi probabilmente possibilmente inesistente. Questa è quello che dice, io lo apprezzo in particolare perché lei lavora nel settore. Sentiamo Laura che ci chiama dalla provincia di Roma. Dottor Giannino, buonasera, io sento sempre le sue trasmissioni, la stimo tantissimo. Ho chiamato perché penso di poter dare un parere con una certa cognizione di causa, perché sono una farmacista, quindi come tale laureata all'Università di Roma, e ci tengo a precisare che anche i medici che fanno omeopatia sono primordialmente tutti laureati all'università, e applichiamo la medicina cosiddetta ufficiale tutti i giorni nei nostri percorsi professionali, però c'è anche un qualcosa che poi ci ha spinto a cercare qualche cosa di diverso, che potesse gestire le piccole patologie, perché noi facciamo molta prevenzione con l'omeopatia e facciamo l'accompagno di patologie laddove possiamo diminuire gli effetti collaterali dei farmaci e i fastidi dei pazienti, che non sempre sono trattabili con farmaci chimici. Allora, sarebbe una pazzia dire che non serve l'antibiotico, che non serve la terapia per il diabete o che non servono i vaccini. Io sto seguendo questa cosa anche stamattina, vi ho sentiti, ci vogliono i vaccini, ci vuole la medicina, ci vuole tutto, però ci vuole anche l'ampiezza di guardarsi intorno e capire che non possiamo gestire dei neonati con una bottiglia di antibiotico al mese, come purtroppo accade, perché ci sono gli effetti collaterali, ci sono io mi limito a dire, sono l'ultimo, dico solo che le evidenze scientifiche dicono al massimo effetto placebo. Io questo leggo, ma questo c'è nella letteratura scientifica, è noto a tutti. Può essere che la scienza ancora non abbia capito che questi preparati iperdiluiti, l'acqua a memoria, perché di questo è il fondamento di questa cosa, l'acqua a memoria, può essere che lo scopriremo, allo stato non lo sappiamo, però non pare proprio di no, che non ci siano formazioni molecolari residue all'assenza per iperdiluizione del principio attivo identificato. Però detto tutto questo, io lo so che è un tema che divide, secondo